24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:30 minuti che scoccano in questo istante, eccoci cari ascoltatori con 24 mattino in diretta fino alle 9. E subito vi voglio lanciare il sondaggio di oggi, che già potete votare su radio24.it o ilsole24ore.com, come state già facendo da ieri sera. Parliamo delle carceri oggi, del sovraffollamento. Il governo ha decretato lo stato di emergenza per il sovraffollamento nelle carceri. Voi come lo risolvereste il sovraffollamento? Vediamo tre possibilità: con la costruzione di nuove carceri o con l'applicazione maggiore delle pene alternative al carcere, oppure con un nuovo indulto, il provvedimento più impopolare assunto sotto il governo Prodi e approvato dal Parlamento. Che ne pensate? Per ora con il 54% vince la costruzione di nuove carceri, poi il 45% le pene alternative, solo l'1% di voi vorrebbe un nuovo indulto. Ne parleremo alle 8:30, di questo si occupano i giornali, ma ovviamente la notizia del giorno purtroppo è il dramma di Haiti. Andiamo a vederli i giornali. In primo piano. E a volte davvero più che i titoli, più che gli articoli possono parlare, raccontare tanto le fotografie come delle catombe, della tragedia che è riassunta davvero da fotografie, poche fotografie drammatiche. Una su tutte è una donna di Haiti che è nera di pelle ma è completamente bianca, in questo caso di polvere, di calcinacce che la ricoprono e che insomma con uno sguardo così di che comunica sofferenza ma anche una certa rassegnazione viene pubblicata sulle prime pagine di tutti i giornali oggi. È un po' l'emblema del dramma che ha colpito questo paese, uno dei più poveri del mondo. I titoli di apertura sono tutti su questo: Haiti è diventata un cimitero, questo per il Corriere della Sera; apocalisse ad Haiti, 100.000 morti per Repubblica; Il Sole 24 Ore la mette in prima pagina: terremoto devasta Haiti, si temono oltre 100.000 morti; Haiti, il giorno dell'apocalisse per la stampa, e così via dicendo. Il Quotidiano Nazionale titola come un'atomica. Non è che vi voglio segnalare alcuni articoli piuttosto che altri, qualsiasi giornale comprerete oggi troverete pagine, le prime pagine dedicate a quello. Le testimonianze sono anche rare perché, come abbiamo sentito, da Haiti sono crollati anche tutti i sistemi telefonici, si può comunicare solo col satellitare, con Skype, qualcosa grazie alla rete, ma di certo trovate anche tanto nei racconti, per esempio anche nei racconti storici di quella che è quest'isola. Vi segnalo solo in prima pagina del Corriere della Sera Ghena Eracti, che è direttrice di un programma di bambini disabili all'ospedale San Damien di Haiti, una testimonianza: vivo ad Haiti da molto tempo, sono abituata al dolore, alla miseria, al peggio. Avevo anche imparato, stando qui, che non esiste un peggio da cui non si può risalire. Dirigo il programma Bambini Disabili all'ospedale San Damien di Port-au-Prince. Ho visto medici e volontari fare miracoli, ho visto bambini imparare a sperare. Credevo di aver visto tutto, invece fino a ieri non avevo mai visto una tragedia vera. Le persone che non sono morte sotto le macerie continuano a morire lungo le strade senza nessuna possibilità di aiuto. La città è bloccata, muoversi da un quartiere all'altro richiede ore. I telefoni non funzionano, le autorità non esistono più. I 9.000 operatori dell'ONU sono impegnati a scavare, cercare se stessi tra le macerie del loro stesso palazzo crollato. Comunicare a un'impresa legata ai pochi telefoni satellitari disponibili sull'isola. Sono andata all'ospedale, quando sono arrivata non l'ho più visto, sentivo solo voci da sotto le macerie senza poter far nulla per tirar fuori chi gridava e sangue ovunque. Poi sono tornata all'ospedale in cui lavoro, ho visto quel fiume di gente che cominciava ad arrivare, bambini con ferite terribili, le infermiere fanno il possibile, ma il possibile è ancora molto poco rispetto a quello che servirebbe. A chiunque legga questo appello chiedo: aiutateci, per favore. Questa è forse la testimonianza più efficace che troverete sui giornali, la pubblica il Corriere della Sera, e poi appunto magari anche interviste di scrittori, di scrittrici, ma che stanno all'estero, insomma anche la disperazione, non hanno notizie dei loro familiari, come, come in Italia, certo, sono 170 circa gli italiani, si cercano notizie anche di tutti loro, insomma, ma d'altronde la situazione è davvero una situazione che, come abbiamo fatto ieri, monitoreremo anche quotidianamente, costantemente su Radio 24 durante la giornata di oggi, una situazione davvero, davvero drammatica. Io voglio lasciare questo tema per arrivare alle cose italiane che trovate sui giornali. Sono due sempre i temi portanti, quello del fisco e della giustizia, vale a dire le due riforme in campo. Ieri, a dir la verità, sul fisco, sulle tasse, c'è stato un dietrofront da parte del Presidente del Consiglio, o meglio il Palazzo Chigi dice nessun dietrofront, ma ora vedremo che i più critici paradossalmente sono proprio i giornali vicini alla linea del governo. Cominciamo a vedere come la pone il Sole 24 Ore: i tagli fiscali dopo l'uscita dalla crisi. Questo è il titolo di apertura di prima pagina accanto ad Haiti. Tagli fiscali sì, ma dopo la crisi. La riforma fiscale, insomma, è una sfida che il governo deve affrontare perché il sistema non è né efficace né giusto e dunque serve un grande cambiamento. Però il grande tema è che Berlusconi ha detto: il taglio delle tasse adesso non è possibile. L'attuale situazione di crisi, scrive Isabella Bufacchi a pagina 5, non comporta nessuna possibilità di riduzione delle nostre imposte. E se questo non fosse già abbastanza chiaro, è assolutamente fuori discussione che si possa pensare a una riduzione del taglio delle tasse all'ombra di 6 punti di calo del PIL in 2 anni e dell'aumento dei deficit e del rapporto debito-PIL con relative percussioni sulle entrate tributarie. Ieri, tra l'altro, Giulio Tremonti è andato a Porta a Porta su Rai 1 e sul fuoco di fila di domande a cui ha dovuto rispondere sul taglio delle tasse, sulla tassazione delle rendite finanziarie, sui lavoratori autonomi, sulla cedolare secca sugli affitti, dice Tremonti: sulla riduzione delle imposte soprattutto non possiamo fare stupidate, follie, non serve a nessuno l'avventura a causa del debito pubblico terzo al mondo per dimensioni, anche se, ha sottolineato Tremonti, c'è stata la crisi e non abbiamo aumentato le tasse. Come la pone Repubblica, prima della conferenza stampa ieri di Palazzo Chigi ci sarebbe stato un colloquio proprio tra Tremonti e Berlusconi che avrebbe fatto passare la linea Tremonti, vale a dire la linea più del rigore. Tremonti che ha chiesto a Berlusconi, scrive Repubblica, di rimettere le illusioni nel cassetto, i tempi dei tagli fiscali arriveranno forse. E infatti, come dicevo, sono soprattutto il giornale e Libero i due quotidiani che oggi sono più critici, paradossalmente, nei confronti del Presidente del Consiglio. Guardiamo i titoli di apertura. Il pasticcio delle tasse, questo è il giornale. Mentre Libero titola: caro Silvio, non ci stiamo. Vediamo per esempio cosa scrive Vittorio Feltri, il direttore del giornale. Caro Presidente, nel suo editoriale, quantomeno qui c'è un difetto di comunicazione e non saprei chi ne sia responsabile o irresponsabile. Sta di fatto che alcuni giorni fa le è stata attribuita da tutti i media, compresi il giornale Il Corriere della Sera, la volontà di abbassare, mediante una riforma fiscale che riduca a 2 le aliquote, 23 e 33%, le tasse entro il 2010. L'idea ha suscitato in me 2 sentimenti contrapposti. Primo, perplessità, dovuta al fatto che il PIL è sceso nel 2009 di 5-6 punti. Secondo sentimento, gioia, perché in ogni caso una semplificazione dei meccanismi di prelievo di reddito e un allentamento della pressione fiscale potrebbe essere la precondizione per rilanciare i commerci, la produzione, l'economia. Quanto alle mie perplessità iniziali, le ho accantonate in omaggio alla fiducia che nutro in lei. Ieri accendo il televisore, la vedo in conferenza stampa, mi fermo ad ascoltare e apprendo che, data la congiuntura difficile sotto il profilo finanziario, non se ne parla neanche di alleggerire quest'anno le aliquote. Sia chiaro, comprendo perfettamente le ragioni che la inducono a soprassedere, ma se è stato un errore, forse conviene dirlo. Capita a tutti di sbagliare. Così il giornale, mentre Libero va ancora più a fondo. Intanto c'è un articolo e un editoriale, anche in questo caso del direttore Maurizio Belpietro, che inizia così: eh no, caro Cavaliere, stavolta non ci stiamo. In questi anni l'abbiamo sostenuta sempre, anche le rare volte in cui ci convinceva poco. Pensavamo che in fondo era necessario essere uniti sul disegno finale di rifare l'Italia, era il nostro sogno. Lei non può venire a dirci una mattina di gennaio dell'anno Domini 2010 che sulle imposte non calerà la mannaia. L'aspettiamo almeno da 15 anni, da quando cioè lei scese in campo promettendo una rivoluzione liberale. E dunque, insomma, le due critiche, tra l'altro Libero che cosa fa? E allora oggi parte con un'inchiesta sul fisco e sulla giungla del fisco. Il fisco, una giungla di 1843 tributi. Da oggi li pubblicheremo tutti, fa sapere Libero. Oggi partiamo con i primi 100, è un'inchiesta firmata Franco Bechis. C'è, pensate, anche un balzello sull'aria. Non è una battuta, scrive Bechis, tra le 1843 tasse che ogni anno in piccoli rivoli affluiscono nei forzieri del Ministero dell'Economia ci sono anche le accise particolari sui gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e sul metano miscelato ad aria. La miscela serve così a rendere più facilmente combustibile petrolio e metano. Il risultato però è da Guinness dei primati, sostanzialmente dice Libero, ad essere tassata in Italia c'è pure l'aria. Piccola accisa, certo, piccola goccia del mare. Ma insomma, ecco l'elenco dei primi 100, ma immagino li pubblicheranno tutti e 1843 tributi, tutti coloro che convergono poi nelle entrate per il fisco. Tra le prime 100 selezionate da Libero c'è anche una piccola imposta sull'aria. Pagina 4 e 5, sotto il titolo La beffa fiscale, si parte dall'IRE, dipendenti pubblici esclusi enti, insomma le prime 100, eccole qua alcune, l'accisa sull'energia elettrica, l'accisa sul consumo della birra, l'accisa sul consumo sugli spiriti, l'IVA, l'imposta di registro, il diritto fisso erariale per il totocalcio, per il totogol, sui giochi, sull'enalotto, insomma tutto l'elenco con quanto portano di incassi alle casse dello Stato e dunque al Ministero dell'Economia. Insomma, questa è la questione fiscale. L'altro tema, come detto, è quello della riforma della giustizia. Il decreto di cui si parlava tanto ieri non c'è più, perché quel decreto che inizialmente dicevano i giornali era stato messo a punto ispirato da una norma, da una sentenza della Corte Costituzionale che avrebbe dato 45 o 60 giorni di sospensione a tutti i processi durante i quali è cambiata l'accusa nella fase di dibattimento, non c'è più. Perché? Perché già quella sentenza della Corte Costituzionale è legge di fatto, essendo una sentenza che fa giurisprudenza, come si suol dire in questi casi, e dunque non c'è bisogno di fare un decreto. Però la giustizia è il tema che rimane sul tavolo. Il Premier ha fatto anche una conferenza stampa ieri dopo il Consiglio dei Ministri e ha detto questa frase che è ripetuta da tutti, è ripresa da tutti i giornali. La leggo titolata sul Corriere della Sera: su di me calunnie, certe toghe, certi magistrati sono peggio di Tartaglia, vale a dire colui che gli ha scagliato la statuetta del Duomo. Quello, dice Berlusconi, quello che non va bene è quella character assassination messa in campo contro la sua persona, anche dalle toghe, con aggressioni patrimoniali giudiziarie anche peggiori di quelle di Piazza Duomo. E infatti su questo il giornale, che sebbene critichi con Feltri Berlusconi sulla questione della marcia indietro sulle tasse, mette sotto, sull'altro grande tema giustizia, un articolo del condirettore Sallusti: perché invece servono leggi ad personam sulla giustizia. Perché la teoria è questa: se uno guardasse gli ultimi 5 minuti di un film, è come leggere, scrive Sallusti, la vicenda giustizia Berlusconi fermandosi a quello che sta accadendo in questi giorni, vedendo gli ultimi 5 minuti di un film. Se uno guarda gli ultimi 5 minuti di un film, una persona vede magari che spara un'altra. L'impressione è che il cattivo sia chi impugna la rivoltella e la vittima chi sta sotto tiro. Ma spesso al cinema, come nella realtà, è esattamente l'inverso. Chi ha visto tutto il film sa che lo sparatore ha subito per tutta la storia violenze e angherie e a un certo punto riesce a farsi giustizia. Questo, secondo il giornale, è la linea, insomma. Berlusconi, che dal 94 è perseguitato dalla magistratura e che dunque oggi reagisce trovate insomma tanto sul tema della giustizia. Trovate per esempio anche un'intervista a Oscar Luigi Scalfaro, l'ex presidente della Repubblica, al Corriere della Sera, che dice: vogliamo sapere la soluzione? Beh, basta fare un lodo Alfano corretto con dei limiti temporali. È un po' paradossale, è interessante che proprio Scalfaro, che spesso è stato critico sulla linea berlusconiana sulla giustizia, invece dice no, facciamo un lodo Alfano nuovo, sarebbe legittimo, ma a due condizioni. Innanzitutto che non si danneggi il diritto dei terzi e poi che siano ben definiti i termini di durata di un ipotetico scudo, senza furberie. Faccio un esempio personale. Io sono stato eletto da giovane nell'Assemblea Costituente, da allora sono sempre stato confermato in Parlamento, ora senatore a vita. Se avessi delle pendenze penali, quelle cause morirebbero con me e il disgraziato che me le avesse intentate vedrebbe negato ogni suo diritto. Quindi Scalfaro dice: va bene, facciamolo, ma facciamo un preciso confine cronologico passato il quale il processo deve avere il suo completamento naturale senza prescrizioni. Questi principi dovrebbero valere anche per il legittimo impedimento, chiede Marzio Breda. Ovvio, bisogna essere rigorosi, evitare una permanente e ridicola rincorsa a trovare continuamente escamotage che consenta al potente di turno di scansare le udienze. Dunque, dice Scalfaro, non disturberebbe nessuno una sorta di lodo Alfano rivisitato. In molti paesi d'Europa una simile norma esista, ma facciamola per un arco temporale preciso e per evitare che ci siano escamotage per rinviare i processi sempre e comunque. In primo piano. Sì del governo al piano carceri, 21.000 nuovi posti entro il 2012. Questo è il titolo dell'articolo su Repubblica, ma ne parlano poi i vari giornali come La Stampa, modello L'Aquila per le nuove carceri, cioè che L'Aquila vuol dire costruzioni veloci, rapide e non permanenti per aumentare la capienza dei posti nelle carceri. Questo, ripeto, è il tema del nostro sondaggio. Voi come risolvereste questo sovraffollamento? Vi diamo tre possibilità: con un nuovo indulto, ed è pochissimo votata dall'1% di voi per ora, oppure con appunto nuove carceri, il 53% di voi dice così, oppure con le pene alternative al carcere, il 46% di voi, quindi vi state dividendo su pene alternative o nuove carceri. Infatti Repubblica punta proprio, ecco i vantaggi delle pene alternative, a casa nel weekend e lavori utili. Tra l'altro due commissioni, una che fu insediata sotto il precedente governo Berlusconi, a capo c'era Carlo Nordio, magistrato, l'altra, quella sotto il governo Prodi, presieduta dall'avvocato penalista Giuliano Pisapia, avevano proprio puntato sulle pene alternative al carcere, basandosi su che cosa, scrive Repubblica? Su questi dati: oltre 4.000 detenuti devono scontare pene inferiori ai 2 anni e ogni giorno, pensate, passano dal carcere 170.000 persone per restarci non più di 3 giorni. 3 giorni solo. Quindi c'è il classico carcere, si parla in questi casi delle porte girevoli, no? Persone che entrano e escono, e però in alcuni periodi creano un sovraffollamento. Allora, perché persone che devono stare 3 giorni in carcere non dovrebbero fare pene alternative come lavori sociali, oppure andare in comunità di cura se sono tossicodipendenti, in strutture protette, che non vuol dire lasciarli liberi, ma vuol dire per esempio fare dei lavori socialmente utili invece di stare in carcere e creare questi problemi di sovraffollamento. Infatti Avvenire, a pagina 9, fa un'intera pagina, ieri Avvenire titolava addirittura la prima pagina sul dramma carceri, oggi fa un'intera pagina, l'affidamento in prova è nel maxi piano carcere, è un po' la novità di questo piano annunciato dal ministro Alfano, che non prevede solo nuove strutture ma anche il processo sospeso, per esempio a chi imputato per reati punibili con pena fino a 3 anni accetta di svolgere lavori di pubblica utilità per riabilitarsi. Insomma, che ne pensate? Interessante questo tema. Mentre l'altro tema sulla questione carceri sono le vicende che spesso vengono tirate fuori dai giornali. Ma come? Ma ci sono tante carceri inutilizzate, incomplete. Oggi Il Fatto, per esempio, Il Fatto Quotidiano, fa un'intera pagina, firma Giuseppe Lo Bianco, che firma da Gela, dicendo prende questo come emblema di una delle carceri mai completate e iniziate 50 anni fa. già inaugurato due volte, eppure non è ancora in funzione. Ma il Messaggero invece punta su un altro carcere, su un'altra delle carceri simbolo dello spreco da questo punto di vista, quella di Reggio Calabria, credo, Arghillà, mai entrato in funzione, eppure ci sono delle carceri dove manca una stradina di collegamento dalla struttura alla strada principale, per questo sono lì inutilizzate. E quindi anche questo è un altro tema di discussione. Oh, vorrei segnalarvi qualche cosa di politica come interviste. C'è il Riformista che intervista Bersani, il leader del PD, che dice sì alle riforme, ma so è la centrodestra che non le vuole. Sul fisco dice tono propagandistico, avete visto che retromarcia dietro fronte del governo. È un'intera pagina di intervista, parla di riforme, di fisco, eccetera. Così come vi segnalo l'intervista di Carra, esponente del PD cattolico, che dice me ne vado dal PD, un altro che se ne va dopo Rutelli, la Binetti rimane, l'abbiamo sentita credo anche la Zanzara ieri, l'altro ieri. Carra dice verrà via anche Lusetti, dove vado? Vado da Casini e dunque all'UDC al centro. Come vi segnalo la Craxeide del giorno, Craxeide insomma si sa, i 10 anni della scomparsa saranno martedì prossimo o forse lunedì, il 19 gennaio insomma. Oggi Aldo Cazzullo intervista chi? Anna Craxi, la vedova Craxi. In realtà non è proprio un'intervista, ma insomma... D'altronde dice non ha mai fatto interviste e non ne farà neanche quest'anno, ma una sorta di così racconto da Mamet dove vive e da dove dice non tornerò mai più, addirittura annuncia ho preso la cittadinanza tunisina, sono diventata cittadina della Tunisia, tra l'altro non tornerò più io, non tornerà mai più neanche la salma di Bettino, contrariamente a quanto ha chiesto un ex esponente insomma, storico del PSI, Rino Formica. Vivo nella nostra casa sulla collina, dice Anna Craxi, con la pensione di parlamentare dei 5.127 euro di Bettino Craxi. Non ci credevano neppure quando Bettino diceva che sarebbe tornato solo da uomo libero, era una persona di parola, mio marito, non potevo essere da meno, rimarrò per sempre qui. È un po' sull'onda dei ricordi, ricorda anche un po' gli ultimi anni, sicuramente l'ultimo periodo, sicuramente drammatico, insomma, della loro dimora lì ad Hammamet e della scomparsa. Voglio concludere segnalando che troverete anche qualcosa sulla crociata definita così, l'abbiamo sentita anche in GR24 di Trento, che ha stabilito che non si potranno più gettare per strada i mozziconi di sigarette. 500 euro per chi getta cicche a terra. Lo trovate in prima pagina di Repubblica e poi all'interno l'ha deciso insomma la giunta. Non è neanche la prima città, né al mondo, Singapore, Londra già lo fanno, ma anche in Italia, Varese, Parma, Erba, Polli Cacciaroli, così leggo, in provincia di Salerno, Tirano, in Valtellina, insomma vari sindaci, c'è chi ha messo addirittura anche multe di 1.000 euro. Sono dei rifiuti veri e propri, devono essere trattati così e dunque basta buttare mozziconi di sigarette a terra. A Trento ci sarà una multa di 500 euro per chi lo farà. Va bene, mi fermo qui per la rassegna stampa di oggi, trovate davvero tanti spunti interessanti anche di altre cose, ma d'altronde l'invito è sempre quello, comprate il quotidiano o i quotidiani che preferite e poi leggeteveli, che è sempre una cosa piacevole. E allora, ricordiamo il sondaggio che dovete votare su radio24.it, nella home page un po' in basso a destra trovate bianco e nero, entrate lì, oppure dal sole24ore.com, il piano carceri e come risolvereste voi il sovraffollamento che ha portato allo stato di emergenza nelle carceri italiane, con un nuovo indulto oppure con la costruzione di nuove strutture oppure con l'implementazione delle pene alternative al carcere. Sono le 8:15 minuti, eccoci ben ritrovati con 24 mattino ed è il momento dell'economia. Con Teletu parli e navighi 6 mesi gratis. Info e copertura al 1922 o su teletu.it. Vi presenta Soldi e dintorni. Ecco, ci trovo una Deborah Rosciani più rinfrancata. Meno male che questa volta tre reti le portiamo a casa pure noi. Basta una Coppa Italia qualsiasi per rinfrancarla un po'. Un po' di consolazione, speriamo di mantenere l'allenatore almeno fino a domenica. Sì, io sono affezionata a Ferrara, cosa vuoi che ti dica? Ti è simpatico Ferrara? Eh sì, bene. Voglio bene, però. Che bello parlare di calcio. Con una donna, eh? È un miracolo, ma io no, guarda, adesso... ti pregherei di non esplorare oltre perché la mia cultura non va molto. Un giorno ci spiegherai il fuorigioco passivo, no, cosa è? Il fuorigioco è veramente terribile. Vabbè. Niente, non mi c'entra quasi quanto la duration dei titoli di Stato, come ho confessato un giorno a Salvo Danaio. Allora, di che parliamo? Di un altro mistero, se per questo, un po' come il fuorigioco per le donne, cioè le oscillazioni dei prezzi dei carburanti in relazione all'andamento dei mercati internazionali. C'è un bel mistero perché, come sappiamo, e questa è una denuncia che viene fatta frequentemente dalle associazioni dei consumatori, ma anche dai giornalisti, quando il prezzo del petrolio cresce, i prezzi ai distributori si adeguano immediatamente, quando il prezzo del petrolio cala, invece il calo appunto delle quotazioni dei prezzi alla pompa non è altrettanto rapido. In realtà quello che monitoriamo oggi è un altro problema, perché da qualche giorno il monitoraggio sui prezzi dei carburanti è tornato a rafforzarsi per più ragioni. Intanto perché la benzina verde viaggia vicinissima alla soglia di 1,37 euro con Shell capofila degli aumenti recenti secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia, ma più della benzina forse è il caso di accendere un riflettore sul prezzo del gasolio, del diesel, che due giorni fa ha superato 1,20 euro. Allora, tanto per cominciare, è stato convocato per martedì prossimo, 19 gennaio, un nuovo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico per fare il punto con le compagnie petrolifere sull'andamento del prezzo dei carburanti, e nell'occasione il ministro Scajola ha detto che tornerà a chiedere informazioni sui motivi alla base dei recenti rialzi dei prezzi di benzina e diesel. E allora, cosa dobbiamo pensare rispetto intanto a questo gasolio che comincia a viaggiare su prezzi simili alla verde? Dobbiamo convertirci tutti al metano per risparmiare, affrontando poi l'altro problema di una rete di rifornimento, non dico inesistente, ma assolutamente insoddisfacente in Italia? Tutti i temi che stamattina affrontiamo con un esperto di mercato petrolifero, Antonello Minciaroni, appunto, che scrive su questi argomenti per quotidianoenergia.it. Minciaroni, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Abbiamo messo nel calderone tanti argomenti, sono temi sui quali anche gli ascoltatori della nostra trasmissione sono molto attenti. Allora, quello che dobbiamo subito rilevare è che effettivamente da qualche settimana a questa parte i prezzi alla pompa sono ritornati a crescere, con in particolar modo, come dire, lo spiacevole episodio che tende a verificarsi abbastanza spesso quando il traffico sulle strade è particolarmente intenso, mi riferisco a Natale, Capodanno, ma anche questo succede anche in estate. A quanto pare c'è questa tentazione di aumentare i prezzi in maniera un po' più forte rispetto ad altri periodi dell'anno. Le quotazioni del greggio hanno dato un po' anche ragione ai distributori, perché è ritornato a $80 al barile, la settimana scorsa era 83, ieri sera a New York ha chiuso a 79,5. E allora, le quotazioni del greggio stanno giustificando questa nuova tendenza al rialzo, Minciaroni? Ma sicuramente sì, perché il fenomeno non riguarda solamente, come chiaro, il mercato italiano, ma è un fenomeno che riguarda tutti i mercati mondiali. Rispetto a un anno fa, le quotazioni, i prezzi dei carburanti nella rete italiana sono saliti grosso modo di 20 centesimi la benzina e di 11 centesimi il diesel. Se prendiamo un confronto con il mercato americano, sempre rispetto a un anno fa, le salite sono espresse in litri, loro ragionano in galloni, ma espresse in litri sono di 26 centesimi la benzina e 15 il diesel. Dico questo per dire che quando i prezzi si muovono su tutta la scala mondiale, quindi non esiste un fenomeno Italia, esiste un fenomeno legato all'andamento dei prezzi del greggio. Il greggio l'anno scorso, come tutti ci ricordiamo, ai inizi del 2009 era sprofondato fino a $40 a barile. Oggi è intorno agli $80 e quindi questo evidentemente ha determinato una risalita delle quotazioni dei prodotti, che con sé ovviamente trascina i prezzi alla pompa. Adesso le chiedo un attimo un commento, Minciaroni, anche su queste convocazioni che dal Ministero dello Sviluppo Economico continua a fare all'industria petrolifera. In ogni caso, se rispetto ad un mese fa comunque la situazione non è cambiata, le giustificazioni che l'industria porterà sono sempre le stesse, mi chiedo quali possono essere le ragioni di nuovo di questo incontro. Chiaramente ragioni politiche, il Ministero vuole dimostrare che fa un monitoraggio della situazione e che quindi ascolta anche quanto denunciano le associazioni dei consumatori, ma tutto sommato, se è una situazione normale, allora secondo lei perché c'è una convocazione da parte del Ministro? Ma infatti infatti lo trovo abbastanza strano e direi che il ministro farebbe bene a continuare sulla falsariga di portare avanti delle riforme vere di settore, cosa che sembrerebbe alle viste anche per quello che ha proposto il ministero stesso come per riqualificare la rete italiana. Gli aumenti dell'ultimo mese sono giustificati dall'aumento dei prezzi dei prodotti sui mercati internazionali, che è assolutamente in linea con quelli che sono stati poi i prezzi alla pompa. Quindi direi che le compagnie troveranno abbastanza agevole dimostrare che quello che avevano detto rispetto all'ultima convocazione rimane valido, cioè che l'aumento dei prezzi è giustificato dall'aumento delle quotazioni internazionali. Però direi anche che sul fatto che i prezzi alla pompa non scendono con la rapidità con cui invece sembrerebbe che salgono, questo evidentemente è una sensibilità che ognuno di noi come consumatore ha, però è smentita anche dai numeri. Io voglio solo ricordare che all'inizio della crisi finanziaria del 2008 la benzina e il diesel viaggiavano a quotazioni alla pompa di 1,55 euro al litro. Dopo sei mesi, quindi alla fine del 2008, agli inizi del 2009, le quotazioni erano rispettivamente di 1,10 la benzina e 1,05 il diesel, vale a dire che erano scese di 45 e 50 centesimi al litro. Quindi è evidente che le salite fanno notizia, le discese molto meno. Le compagnie quando devono scendere hanno dimostrato di scendere, e quando devono salire non si tirano indietro. Insomma, lei non condivide tanto allora quello che osservano e che osserviamo come consumatori, che notiamo invece il meccanismo di ridimensionamento dei prezzi un po' più vischioso rispetto a quando invece tendono a salire. Lei ricordava le quotazioni del prezzo in euro 55 quando il record del petrolio era a 147, esattamente a $150 quasi, sì. Quindi luglio 2008. Adesso abbiamo una situazione nettamente ridimensionata e però nonostante tutto, nonostante gli inviti, come dire, le abitudini dei consumatori italiani non tendono tanto a cambiare. Nel frattempo che aspettiamo questa riforma della rete, in sostanza di distribuzione dei carburanti, questa razionalizzazione della rete della quale si parla da un po', che quest'anno potrebbe anche vedere la luce, almeno nel suo progetto, possiamo dare qualche indicazione di nuovo Minceroni ai consumatori, perché se continuano in ogni caso a notare questo meccanismo che evidentemente pesa anche nel loro portafoglio, bisogna evidentemente fare qualcosa per cambiare la propria abitudine e cercare le occasioni di risparmio. Prima di fare questo le volevo chiedere un'altra cosa. Ho notato dalle statistiche anche che pubblica il vostro sito Quotidiano Energia che si possono fare delle medie di prezzo del carburante erogato dalla singola marca, ma si possono fare delle medie di prezzo perché evidentemente i gestori, anche appartenenti alla stessa insegna, spesso a quanto pare possono praticare dei prezzi diversi. Loro sostengono di no. Io mi sono fatta anche una chiacchierata con il mio benzinaio per chiedergli quanto è indipendente dalla rete che rappresenta e per la quale distribuisce. Ma secondo lei loro possono farsi concorrenza tra di loro? È vero questo? Ma direi che i gestori hanno scarsa possibilità di fare concorrenza, perché sono legati ai vincoli che le compagnie raccomandano per i prezzi della loro rete. Quindi direi che il grosso della concorrenza non può derivare dal gestore, ma deriva sicuramente dalle impostazioni che la compagnia dà loro, quindi il gestore ha scarse possibilità. Però riferendomi sempre ai consumatori, io vorrei fare un po' una fotografia del comportamento dei consumatori italiani. Il consumatore italiano è l'unico consumatore europeo che pretende, per la maggior parte, questo dicono le rilevazioni che vengono fatte, le indagini di mercato, pretende di essere servito a bordo senza scendere dalla macchina. Preferisce essere servito a bordo piuttosto che fare il self-service. In particolare, devo dire, Rosciani, proprio il sesso femminile è quello che predilige. Lei gliela mette su un piatto d'argento ad Alessandro Milan, che adesso mi, come dire, prenderà in giro per tutta la giornata. Ma è così. Adesso non so se lei è un'eccezione, ma normalmente le signore non vogliono scendere perché non vogliono sporcarsi le mani. Per carità, però tutto questo servizio costa, perché evidentemente l'addetto che viene a rifornire la macchina non è che è lì gratis, ma ha un suo costo. Allora, primo invito ai consumatori italiani è scendete dalla macchina. Secondo invito molto importante è controllate i prezzi del carburante che andate ad acquistare. perché ancora l'italiano tende piuttosto a dire fare benzina che acquistare benzina. Esatto, visto che lei fa proprio punta, proprio ho trovato una sua intervista di un bel pezzo fa, di un bel po' di mesi fa, in cui proprio fa questa differenziazione fra il consumatore che acquista e quello che fa benzina, e sono due atteggiamenti molto diversi. Molto diversi. Allora, in tema di consapevolezza, certo. Per dire, il consumatore tedesco è disponibile, questo sempre le indagini di mercato lo dicono, è disponibile a fare qualche chilometro in più pur di trovare la pompa di benzina che pratica dei prezzi a lui confacenti. Certo. Il consumatore italiano aspetta che il lampeggiatore della sua macchina segni giallo, entra, non sa quanto paga, evidentemente questo atteggiamento non favorisce sicuramente la competizione. Vincerone, ci rimane pochissimo tempo. Sì, poi abbiamo le reti indipendenti, i distributori che non hanno le grandi insegne, però non ce ne sono molti nel nostro paese, anche lì bisogna perdere un po' di tempo e spendere anche del denaro per andare a cercarli. Beh, però insomma, dove ci sono sarebbe bene che il consumatore cominciasse a frequentarli, perché le possibilità di risparmio sono notevoli. Un'ultima cosa, il diesel, visto che da questo siamo partiti, ha superato 1,20 euro, lei vede, come dire, in prospettiva un aumento delle quotazioni sul fronte del diesel che potranno continuare? Ma io credo che il diesel era precipitato molto più della benzina, come abbiamo visto prima, proprio perché è il tipico carburante anche dell'attività industriale. Sì. Nel momento in cui l'attività industriale dovesse consolidarsi e riprendersi, che è un auspicio penso che tutti facciamo, è probabile che le quotazioni del diesel siano più suscettibili di aumenti rispetto a quelle della benzina. Torneremo allora a disturbarla per commentare anche questa tendenza. Minceroni, per adesso grazie e buona giornata. Buona giornata anche lei, Deborah. E per tutte le informazioni appunto su questo settore, ovviamente per chi vuole saperne qualcosa di più, segue in maniera un po' più attenta le quotazioni del prezzo del petrolio e quindi dei carburanti, vi segnalo proprio il sito quotidianoenergia.it. Alessandro? Eccoci allora. Ritorniamo sulle detrazioni fiscali per la ristrutturazione della casa. Oggi 36%, visto che sono state confermate dal governo, e 55% alle 12 a Salvadanaio. Ciao. Scendi dalla macchina, fai benzina, non farti servire. Faccio. Porto dietro il guantino di plastica per non sporcarmi. Ah, sono una vera professionista. Quando sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Innanzitutto a Haiti non ci sono ancora cifre ufficiali, ma si temono oltre 100.000 morti nel paese devastato dal terremoto di due giorni fa. Mancano tra l'altro all'appello al momento anche decine di italiani, ha detto questa mattina il ministro degli esteri Frattini. In Italia Berlusconi dice la riforma del fisco si farà ma non subito e aggiunge tagliare le tasse ora è impossibile vista la crisi. Dall'opposizione le accuse di mentire agli italiani. Sulla giustizia invece salta l'ipotesi di un decreto per sospendere temporaneamente i processi e tra l'altro il premier contro i magistrati dice da alcuni di loro attacchi anche peggiori dell'aggressione che ho subito a Milano. Infine per il calcio gli ottavi di Coppa Italia, la Juventus batte 3-0 il Napoli, passa anche il Milan che batte 2-1 il Novara e il Catania che vince a Marassi contro il Genoa 2-1. E allora alle 8:33 minuti siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi, parliamo del piano carcere annunciato dal governo e del sovraffollamento delle carceri italiane. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Che le carceri siano sovraffollate è un problema annoso che c'è da anni, c'è anche adesso. Ieri il governo ha deciso di stabilire per quest'anno uno stato di emergenza delle carceri. Noi vi vogliamo chiedere questo: come risolvereste voi il sovraffollamento delle carceri italiane? Vi diamo tre possibilità: lo fareste con le nuove strutture oppure con un'implementazione, un maggior utilizzo delle pene alternative al carcere, o infine con un nuovo indulto. Ricordate l'indulto del 2006, il provvedimento sicuramente, ma dai sondaggi anche da allora, giudicato più impopolare dagli elettori, dagli italiani. Per ora vi state dividendo, il 50% di voi vuole nuove strutture, nuove carceri, il 49% vuole pene alternative, soprattutto puntare su questo, l'1%, pochi di voi chiedono ancora l'indulto. Ne parliamo con due esponenti politici, innanzitutto l'onorevole Nicola Nicola Molteni della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a voi. Così buongiorno come Rita Bernardini, radicale, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Onorevole del PD, radicale, insomma. Rita Bernardini, vorrei partire da lei perché i radicali puntano molto, lei spesso tra l'altro si occupa di questo tema, il problema delle carceri, spesso visita anche le carceri italiane. Di recente, qualche mese fa, io ancora abbiamo trovato una sua intervista, credo a Liberazione, diceva ci vorrebbe un nuovo indulto, magari accompagnato da un'amnistia. È ancora, diciamo, su questa linea di un provvedimento che francamente è poco popolare. Io non lo so se ha torto o ragione, ma è poco popolare. Ma intanto diciamo che se non ci fosse stato l'indulto, in questo momento non ci sarebbero nelle carceri italiane 66.000 detenuti, e cioè 20.000 in più rispetto alla capienza regolamentare, ma ce ne sarebbero 100.000, con una vera e propria esplosione delle carceri italiane. E poi noi diciamo innanzitutto amnistia, perché una cosa che ci dobbiamo dire è che in realtà l'amnistia c'è in Italia, si fa ogni giorno con le prescrizioni dei processi, sono 200.000 prescrizioni all'anno, quindi è un'amnistia sotterranea di cui nessuno si assume la responsabilità, con una giustizia che ha una pendenza di 5 milioni e mezzo di processi penali. Se questa è sicurezza, se questa è giustizia, insomma, credo che siamo molto lontani dalla verità dei fatti. Vogliamo ricordare, l'amnistia estingue il reato, alcuni reati, sì. Mentre l'indulto agisce sulla pena. Certo, e servirebbe soprattutto ai magistrati che oggi, con il combinato disposto dell'obbligatorietà dell'azione penale, si scelgono i processi da celebrare. Che amnistia vorrebbe? Cioè che reati cancellerebbe lei, per esempio? Ma l'amnistia che noi prevediamo e presenteremo nei prossimi giorni è un'amnistia ampia, che veramente sia il preludio di una riforma della giustizia. Quindi un'amnistia che però, a differenza delle altre, quelle che sono state fatte in passato, preveda il risarcimento del danno alle vittime, cioè chi vuole accedere a questo istituto deve pagare il danno alle vittime. Tenete conto che con le prescrizioni che ci sono ogni anno, questo danno non viene pagato da nessuno. Allora, io, onorevole Molteni, lei tra l'altro, oltre ad essere onorevole della Lega, è anche avvocato, mi risulta, sì, fa parte della Commissione di Giustizia della Camera, così come Rita Bernardini. Partiamo così, dalla coda, poi parliamo magari del piano carcere, delle nuove costruzioni, del perché se ne devono costruire, quando qualcuno dice ce ne sono anche già di quasi costruite, non si capisce mai perché ultimate, per delle pene alternative. Questa però dell'amnistia o della possibilità dell'indulto, ricordiamo la Lega è sempre stata contraria, insomma, a questi provvedimenti, immagino sia una linea che coerentemente mantenete di assolutamente chiusura, no, amnistia, no, indulto. Di totale chiusura. Totale chiusura. Noi l'abbiamo ricordato anche l'altro ieri in aula durante la discussione sulle mozioni, sul problema delle carceri, dove poi è intervenuto il ministro Alfano, che ha annunciato la dichiarazione dello stato d'emergenza delle carceri, che avrebbe portato poi il giorno dopo in Consiglio dei Ministri. Beh, innanzitutto voglio ricordare che la Lega è stata l'unica forza politica che nel 2006 votò contro il provvedimento 241 del 2006, ovvero il provvedimento di concessione dell'indulto. Beh, l'unica no, forse anche l'Italia dei Valori. Forse, esatto. No. L'Italia dei Valori, che tra l'altro era il governo, ma ha avuto. E tra l'altro era il governo, esatto. Io ritengo, la Lega ritiene, che il problema del sovraffollamento delle carceri, che non è l'unico problema delle carceri, ma è uno dei problemi, forse il principale, ma ci sono anche altri problemi gravi che affliggono il sistema carcerario italiano. Il problema non vada risolto con amnistie, indulti, atti di clemenza generalizzati, con atti di buonismo. Il problema del sovraffollamento delle carceri riteniamo che vada affrontato in modo strutturale e nemmeno in modo demagogico. E penso che, tra l'altro, voglio anche dare atto, perché è giusto dare atto a Rita Bernardini e ai radicali della battaglia importante che hanno sempre fatto, anche quest'estate, con tutta una serie di visite nei carceri, con le battaglie che Rita Bernardini porta avanti anche in commissione. E penso che la risposta che il governo abbia dato sia stata una risposta importante e ci auguriamo che le soluzioni approntate, che sono soluzioni soprattutto strutturali, possano essere. Ecco, a questo proposito, le soluzioni strutturali, se sentiamo il ministro Alfano, proprio annunciando il piano carcere, ha detto quelli sono i pilastri, sono quattro i pilastri, sentiamoli dalla voce del ministro ieri. I quattro pilastri: dichiarazione dello stato di emergenza, il piano edilizio, due importanti norme di accompagnamento e 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Nel corso di questo anno noi intendiamo realizzare 47 nuovi padiglioni, cioè strutture che insistano e si affiancano a istituti di pena già esistenti e che non ci danno l'incombenza di dover individuare l'area, espropriarla e procedere a tutto l'iter amministrativo, in modo che mentre apriamo questi 47 cantieri sul modello dell'Aquila, noi evadiamo tutta la procedura burocratica per realizzare nel 2011 e nel 2012 le strutture tradizionali e flessibili cui daremo vita. Allora, questo ha detto il ministro Alfano, cioè i quattro pilastri tra l'altro sono, oltre a costruire nuove strutture, 2.000 nuovi agenti penitenziari, anche queste norme, la messa alla prova per esempio, chi commette reati punibili fino a 3 anni, a chi li commette sarà sospeso il processo se gli si dà la possibilità in alternativa di svolgere lavori di pubblica utilità. Cioè anche le pene alternative, da cui io vorrei partire un attimo. Rita Bernardin, le chiedo, oggi Repubblica snocciola due dati interessanti, tra l'altro presi dalla commissione Nordio, che era sotto il governo Berlusconi precedente, la commissione Pisapia del governo Prodi. Ci sono 4.000 detenuti in Italia che devono scontare pene inferiori ai 2 anni e ogni giorno, pensate, passano in carcere 170.000 persone che ci rimangono 3 giorni, non anni, 3 giorni. Quindi la classica... Ingolfando tutto. Lei dice, perché delle persone, 170.000 persone ogni giorno devono restare per 3 giorni di media? Cioè entrano, escono, alcuni nuovi arrivano. Perché fare questo ingolfando tutto? Voi cosa proponete da questo punto di vista? Infatti voglio ricordare che nelle mozioni che abbiamo discusso 2 giorni fa alla Camera dei Deputati ci sono state molte parti della mozione radicale che sono state approvate e alcune di queste riguardavano proprio le pene alternative, che si sono dimostrate, voglio ricordarlo, alla luce dei fatti molto più efficaci del carcere, perché quando si tengono persone per 22-20 ore al giorno e in condizioni di sovraffollamento, senza poter svolgere un lavoro, nell'ozio più totale, beh, quella non è rieducazione, mentre le pene possono essere appunto alternative, gli arresti domiciliari che il governo ha proposto ieri per chi deve scontare l'ultimo anno di detenzione e questa messa in prova. È dimostrato proprio da dati alla mano che coloro che scontano le pene alternative sono molto meno recidivi di quelli che scontano l'intera su pena. Questo cioè... Su questo io vorrei, onorevole Molteni, non è che c'è a volte l'immaginario di voler vedere una persona dietro le sbarre, così, perché lo si vuol vedere dietro le sbarre, mentre magari se lo si prende, lo si fa fare dei lavori socialmente utili in una comunità, gli si fa capire alcune cose, magari questo non è un provvedimento buonista, ma magari è un provvedimento che porta a espiare la pena in maniera più giusta anche per la persona che deve espiarla la pena, non crede? Dipende poi chiaramente dal tipo di reato dal tipo di situazione delittuosa. Io devo dire che per quanto riguarda l'applicazione, una maggiore applicazione di pene alternative rispetto a quella privativa del carcere, la Lega è d'accordo. Per quanto riguarda invece l'applicazione della messa alla prova, che è un meccanismo che è già attuato e adottato presso i minorenni, presso i tribunali dei minorenni, beh, noi qualche perplessità l'abbiamo già dimostrata, qualche mese fa quando il tema tornò. Noi guardiamo con grande apprezzamento l'assunzione dell'edilizia carceraria, l'assunzione di nuovi agenti. Noi abbiamo toccato e abbiamo chiesto un altro intervento da parte del Ministro che ci sembra assolutamente fondamentale. Noi oggi abbiamo nelle carceri italiane 65.000 detenuti, più del 37%, quasi il 40% di questi detenuti sono stranieri, 6.000 di questi sono cittadini comunitari, albanesi, rumeni. Noi abbiamo chiesto che vadano a scontarla nel loro paese. E su questo il Ministro si è impegnato pubblicamente il Parlamento ad attuare nuove politiche di stipula di accordi internazionali e di trattati. Perché il problema è quello. Il problema è quello. Noi riteniamo che la popolazione straniera abbia acuito, stiamo parlando di 24.000 detenuti. Questo il problema è che se un albanese, l'Albania, faccio l'esempio dell'Albania, lei l'ha citato, non se lo vuole prendere per far scontare la pena in Albania, insomma, se non ci sono trattati con gli stati, non si riesce a sbloccare questa situazione. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Come risolvereste il problema delle carceri, del sovraffollamento? Il 50% di voi dice con le pene alternative, il 49% con nuove strutture carcerarie, solo l'1% vorrebbe un nuovo indulto. Vediamo un paio di ascoltatori. Novara, Stefano. Siete arrivati vicini al miracolo ieri a San Siro, ma non ce l'avete fatta. Lei era a San Siro, no? Tutta Novara è venuta a Milano a vedere la partita, no? No, no, io per motivi di lavoro mi trovo in Romagna. Vabbè, complimenti comunque, avete uno squadrone. Stefano, dica. Grazie, ascolti, io nel mio pensiero questo qui, sono contro l'indulto e sono anche contro, visto nel momento economico particolare, alla costruzione di nuove carceri. Poi magari dico una sciocchezza. Io abito a Novara, è un super carcere, però intorno alla città ci sono strutture tipo ex caserme che secondo me per i detenuti meno pericolosi e con pene magari più brevi possono essere inseriti in quelle strutture ed essere avviati a lavori di utilità usare sociale. L'ex strutture oppure lavori socialmente utili, insomma, già ci sono. Grazie Stefano, voglio andare a Genova da Maurizio. Sì, buongiorno. Okay. Dunque, io volevo specificare che ovviamente i problemi grossi sono due, cioè da una parte il sovraffollamento e dall'altra ovviamente il contenimento dei costi, perché appare evidente che, magari semplifico molto, ma se costruiamo nuove carceri, ovviamente quei soldi lì, per dirne una, non possono essere destinati a ricerca e tecnologia, che invece sono i pilastri fondamentali nel nostro caso. Vabbè, però non è che c'è o facciamo le carceri o diamo i soldi alla ricerca e allo sviluppo, sì. Non è che... direi di sì. Ma perché le mette in alternativa così? È un po', mi perdoni, è un po' subdola la cosa, metterla, no, come no, dire, no, non è subdola. Diamola ai carcerati. Con il governo Prodi, già c'è il governo Prodi, ha dato i soldi dei camionisti che protestavano, ha tolto la ricerca. Ma queste cose comunque sono dettagli. Comunque, sono 600 milioni costa il piano, questo l'ha detto il ministro Alfano, la nuova struttura edilizia. Pensi un po' quante cose si possono fare nella ricerca con 600 milioni. Ho capito, qui il discorso è diverso. Dobbiamo partire dal presupposto che comunque questi carcerati ci sono, l'indulto ovviamente è una cosa assolutamente impraticabile, e allora la domanda è: perché non approfittare di questa grossa potenza, di questa grossa forza, per dare la possibilità di avere sconti di pena, ma subordinati allo svolgimento di un effettivo lavoro? Ma questo, per esempio, i lavori di pubblica utilità è uno, cioè il ministro Alfano ieri ha annunciato edilizia carceraria, nuovi agenti, ma anche proposte di legge per la messa alla prova, per esempio, cioè se uno rischia fino a 3 anni di carcere non è punibile se fa dei lavori socialmente di pubblica utilità, oppure i domiciliari per chi gli rimane 1 anno di pena perché sta in carcere l'ultimo anno, no, lo mettiamo ai domiciliari. Comunque, insomma, tra l'altro quell'indulto fu votato dal Parlamento anche sull'appello del Santo Padre di allora, Papa Wojtyła, che chiese un atto, insomma, di clemenza al Parlamento, ma è così, è un po' il destino, è associato anche un po', so che in maniera improvvida, al nome di Clemente Mastella, che saluto, buongiorno europarlamentare. Buongiorno. Lei, vabbè, ha sempre detto l'ha votato il Parlamento, però lei lo voleva, insomma, l'indulto, questo certo, sì. Sono stato tra quelli che lo hanno votato, però con me l'hanno votato altri 130 parlamentari su 960, quindi ma devo anche dirle che secondo le stime più recenti in realtà non è che ha determinato alcunché di negativo, anzi coloro i quali hanno avuto, diciamo, l'opportunità di utilizzare l'indulto, in larghissima maggioranza, credo quasi l'80%, queste sono le stime finali, in realtà non sono rientrati, non ha più commesso reati successivamente. Ma perché allora è così impopolare? Anche oggi vede l'1% che non riusciamo a spiegarlo bene, oppure la gente non capisce il fatto perché che... Perché di prima acchito c'è, cioè, l'idea per dire: ma come, cacciamo dalle carceri uno che ha commesso un reato? Questo istintivamente, insomma, secondo me si è fatto un sondaggio anche rispetto alla... come dire, alla Maiolo che ha spintonato il Papa, e nonostante il Santo Padre l'abbia perdonato, ci sarà tantissima gente che dirà ma no, deve essere condannata. Cioè, da questo punto di vista è un dato un po' istintivo, secondo me, che è anche naturale, però chi poi opera sul piano politico ha il dovere di tener conto delle sensibilità, degli umori, ma anche il dovere di tener conto della Carta Costituzionale, perché ci fu una forte emotività che scaturì, come lei ha ricordato, dall'appello del Santo Padre, ma anche dal fatto che chiunque visiti un po' e giri per le carceri si rende conto della situazione drammatica e disumana in cui vivono i carcerati e i detenuti. Questa è la verità. Senta, da ex ministro della giustizia, molti ci chiedono, ma tutte queste carceri, oggi Il Messaggero, L'Avvenire, Il Fatto, Repubblica, tutti dicono ma ci sono strutture non utilizzate, inaugurate due volte a Gela da 50 anni, c'è alcune che gli manca una stradina per arrivare alla strada principale, sarebbero perfette e ne dobbiamo costruire di nuove. Com'è questa storia? Sai, è una politica scelta. Io, per quanto mi ha riguardato, siccome avevo notato che per costruire strutture carcerarie in Italia si impiegano 20 anni, perché voi si tenga conto che non è che decideva direttamente il Ministero della Giustizia, doveva farlo assieme ai tecnici del Ministero delle Infrastrutture e quindi l'ex Ministero dei Lavori Pubblici, i tempi di percorrenza per quanto riguardava la possibilità dell'esito finale duravano quasi 20 anni. E allora mi sono permesso, nel momento in cui c'erano alcune disponibilità, di allargare e quindi determinare padiglioni nuovi laddove era possibile. Poi avevo anche tentato di recuperare alcuni carceri cosiddetti mandamentali che esistono in giro per l'Italia, cioè bisogna vedere però da questo punto di vista il grado di sicurezza, bisogna tener conto del rapporto tra la presenza nelle carceri e la disponibilità della polizia penitenziari, insomma sono tanti aspetti. Certo, recuperare anche quello che c'è secondo me sarebbe una cosa buona, insomma non è che non esistano luoghi che possono essere recuperati dando dignità e valore costituzionale a chi è all'interno delle carceri. Senta, ma un nuovo indulto lei lo farebbe oggi? Lo vedrebbe bene oppure meglio di no? Guardi, gli indulti, come lei sa, si possono fare ed è giusto farli, come dice il mio professor Giuseppe, a quando, cioè nel senso quando ci sono condizioni generali. Loro le condizioni generali parlavano di una possibilità di che nelle carceri scoppiassero incidenti, e questo avrebbe dato un'idea dell'Italia, diciamo, di un paese abbastanza modesto sul piano internazionale. Quindi ma anche adesso allora, non è che fare quello che abbiamo fatto è stato fatto, come dire, poi dopodiché chi l'ha votato se ne è pentito, cioè la spinta emotiva sul piano generale. Pensi che sono arrivato fino anche ad essere collegato, in realtà la spinta emotiva, ricorderà che nella vicenda del tunisino, nella storia della Voghera, mi pare, o Erba, sì, dove era stata ammazzata la mamma, la bambina, eccetera. Io sono stato tormentato anche da autorevoli giornali che mi svegliarono all'1:30 di notte, quasi facendo una sorta di equazione. C'è stato l'indulto, Mastella è ministro della giustizia, la colpa è di Mastella, di quelli che sono stati ammazzati, perché fu subito ritenuto, ecco, nel dato istintivo, che il tunisino, siccome era tunisino, siccome era stato indultato, era l'autore dell'eccidio di là, e poi invece si scoprì che non è assolutamente vero. Cioè, per dire, insomma, com'era il dato emotivo che scatta da questo punto di vista. Io, siccome la stanno ascoltando Rita Bernardini e l'onorevole Nicola Molteni della Lega, Rita Bernardini, perché voi siete contro, cioè dite no, nuove strutture non servono, cos'è uno spreco di denaro? Perché ci sono tanti carceri già inutilizzate. Guardi, io le posso parlare della mia esperienza diretta. Io sono stata recentemente al carcere di Matera e al manicomio l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, e lì ho trovato delle strutture in quelle carceri che non sono nuovissime, ma delle strutture, delle sezioni completamente nuove, chiuse per mancanza di personale. Allora, se non si risolve prima questo problema del personale, ricordo che mancano ad oggi nella situazione attuale 6.000 agenti di polizia penitenziaria. Però è stata annunciata l'assunzione di 2.000 nuovi. Di 2.000. Però se si costruiscono nuovi padiglioni, evidentemente ne serviranno molti di più. Poi mancano 402 educatori. C'è un solo psicologo ogni 187 detenuti. Insomma, queste sono cifre che, se non si dà la risposta a questo, parlare di costruzione di nuove carceri, evidentemente, poi con i poteri speciali che sono stati dati al capo del DAP Iunta, A noi questa cosa preoccupa molto, perché quando si costruiscono opere pubbliche, insomma, la trasparenza dovrebbe essere all'ordine del giorno. Rischiate le carceri d'oro, scandalo delle carceri d'oro. C'è stato già, per quello che l'ho citato. Io mi devo fermare ringraziandovi davvero, da Clemente Mastella, Rita Bernardini, Nicola Molteni, grazie per essere stati con noi. Continuate a votare come risolvereste il sovraffollamento con pene alternative che per ora prevalgono, ma il 51%, o il 48% invece vuole nuove strutture, l'1%, sempre quell'1% vuole ancora aggrappato un nuovo indulto. Grazie a Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domani mattina.